Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Debs. Ben ritrovate e ben ritrovati su Van Loon, la vostra mezz'ora di storia in onda ogni sabato su Radio Città Fujiko. Oggi parliamo di un importantissimo anniversario, infatti la legge 194 compie 40 anni. La legge 194 è la legge che regolarizza l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza, una legge approvata nel maggio del 78, nata da un iter parlamentare faticosissimo quando l'Italia veniva scossa ad uno degli episodi più importanti del suo Novecento, ovvero l'irruzione del movimento femminista. Vi annuncio da subito che varcheremo i confini nazionali e approderemo in Francia, dove negli anni 70 la questione coloniale era un pezzo importantissimo della situazione francese. Per questo approfondimento abbiamo contattato Marta Paniguel, giovane laureata in storia, che nei suoi studi si è dedicata proprio alla Francia. Marta, inoltre, a breve tradurrà un importante libro insieme a Marie Moïse, In the Name of Human Rights, scritto da Sarah Farris per la Duke University nel 2017. Prima di passare alle nostre riflessioni, vi faccio ascoltare Caffè Nero Bollente di Fiorella Mannoia. Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente, in questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me, tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle serrande e cerco in vano qualcosa da inventare in mutande. Un'automobile passa e una mosca vola bassa, mi ronza, gira, gira, ma Ben ritrovate, oggi come vi dicevo parliamo della legge 194 che permette alle donne di accedere all'aborto, una legge che oggi, è bene ricordarlo, non soddisfa le esigenze delle donne, poiché moltissimi medici ricorrono all'obiezione di coscienza in maniera strumentale, negando così a molte donne un servizio pubblico. L'obiezione di coscienza infatti è forse l'elemento più rappresentativo del grande compromesso tra le forze parlamentari del periodo. Purtroppo non abbiamo tempo per soffermarci su questi temi, ma in questa piccola introduzione cercherò di darvi piccoli spunti sul gigantesco dibattito femminista. Agli inizi degli anni 70 vengono approvate una serie di leggi a tutela delle lavoratrici. Il 74 è l'anno del referendum sul divorzio che vede il paese spaccato tra la arretratezza delle istituzioni e l'avanzata dei movimenti. Nel 75 è la volta dei consultori che vede l'articolarsi del difficile dibattito tra femminismo e istituzioni. E sempre a metà degli anni 70 iniziano le grandi manifestazioni di donne che invadono le piazze, che richiedono diritti, tutele e soprattutto l'aborto libero, gratuito e assistito. Si ha a vedersi la grande vivacità e varietà del movimento femminista italiano. E dietro infatti la lotta per l'aborto, animato da tantissime realtà, non solo quelle del femminismo radicale, si vedono appunto tante sfaccettature. Poi una legge uguale per tutte rappresentare le differenze? Proprio di fronte a delle richieste concrete, il movimento delle donne mostra tutte le sue diversità, ma anche le sue originalità. Sono dure le critiche da parte del femminismo radicale che non vuole, tramite delle leggi, vedere la donna come soggetto unico da tutelare, da proteggere in ruoli definiti dallo Stato patriarcale. Non vuole neanche scendere in piazza perché una legge per tutte non serve a niente, perché il femminismo delle piazze, spesso a fianco agli uomini, non rappresenta la profondità dell'esperienza del sé, poiché il femminismo non può essere rappresentato solo da questi episodi. Le crisi si accentuano proprio con la massima visibilità del movimento delle donne, quando giornali e partiti cominciano ad accorgersi del movimento femminista. I simboli dell'affermazione pubblica del movimento delle donne sono due grandi manifestazioni a Roma, quella per l'aborto del dicembre del 75 e una contro la violenza sessuale del novembre del 76, chiamata Riprendiamoci la notte. La lotta per l'aborto, portando il movimento delle donne al massimo livello di pubblicità, svela tutte le contraddizioni e le forze del movimento femminista, unendo donne di età, classi e posizioni politiche diverse, dando dignità pubblica alla pratica più oscura della vita privata. Le rendeva soggetti della politica generale senza farle rinunciare alla specificità femminile. In Italia sono tantissime le donne che muoiono per aborti clandestini praticati con decotti a base di prezzemolo e con l'ago della calza, oppure, per chi se lo può permettere, si aprono le frontiere per l'Inghilterra e per la Danimarca. La lotta per la depenalizzazione dell'aborto è il fiore all'occhiello del movimento Liberazione della Donna. Riesce infatti a portare in piazza migliaia di donne, fa una gigantesca raccolta firme per l'abrogazione di tutti gli articoli del codice penale riguardanti i reati d'aborto, denunciano la gravità della situazione, pretendono un aborto gratuito e non di classe. Lo fanno con tutte le forze che hanno, usando anche le autodenunce di aborto, pratica che viene accolta da molte donne del movimento femminista. La solidarietà alle denunciate non manca, come dimostra l'esperienza di Gigliola Pierobon, militante di lotta femminista accusata nel 73 di un aborto avvenuto quando era ancora minorenne. La rete di cui è militante non si fa attendere e dà il via a tante iniziative di protesta dove l'autodeterminazione del proprio corpo è collegata anche al lato economico, della prevenzione e dell'interruzione di gravidanza. Altro importante protagonista è il CRAC, Comitato Romano per l'Aborto e la Contraccezione, che mantenendo la pratica autoriflessiva interna si concentra nella controinformazione sulla sessualità, avendo come obiettivo la creazione di una rete di vero sostegno e prevenzione. Sono coinvolti non solo alcuni collettivi femministi romani, ma anche alcune realtà della nuova sinistra, come il PDU, Lotta Continua e Avanguardia Operaia. È stato proprio il CRAC a organizzare una già citata e importantissima manifestazione, quella del 6 dicembre 75 per l'aborto, che rappresenta anche la fragilità del rapporto con la nuova sinistra e in generale il complicato dialogo tra femminismo e il resto del movimento. Durante il corteo alcuni uomini di Lotta Continua caricano uno spezzone di donne e la tragica immagine che preannuncia il congresso di Rimini è la fine di Lotta Continua, trovatasi incapace di comprendere le analisi delle militanti femministe. La voce si alza, le donne reclamano e sembrano prendere le attenzioni che meritano. I giornali scrivono e nessuna sembra doversi trovare sola. Ma il femminismo non è uno, e così come le donne non sono un gruppo unico, e anche se tutte le femministe non ne potevano più di aborti clandestini e discriminazioni, le soggettività femminili esprimono riflessioni diverse. Uno dei documenti più particolari che indica la profondità delle riflessioni attorno all'aborto e alla sessualità delle donne si chiama Noi sull'aborto facciamo un lavoro politico diverso ed è un documento scritto dal collettivo di Via Cherubino 8, rappresentativo in parte del femminismo milanese, che venne pubblicato in Sottosopra del 1975, una delle riviste più importanti del movimento femminista. Questo articolo esprimeva tutta una serie di riflessioni e questioni intorno alla sessualità e all'aborto, ovvero diceva semplicemente che l'aborto è solo una delle cose e che il problema sta a monte a come viene intesa la sessualità, la maternità, le soggettività femminili. Ne leggo solo una frase: il lavoro politico va orientato e la soluzione va cercata nell'affermazione del corpo femminile, che è sessualità distinta dal concepimento, della capacità di procreare. La clandestinità dell'aborto è una vergogna degli uomini, i quali, spedendoci gli ospedali ad abortire ufficialmente, si metteranno la coscienza in pace in modo definitivo. Tra l'altro, gli uomini marciano oggi per l'aborto libero e gratuito, anziché mettere in discussione il loro comportamento sessuale, il loro potere fecondante. Altri testi da citare sono sicuramente quelli di Rivolta Femminile di Carla Lonzi, che sono stati importantissimi per il pensiero del neofemminismo italiano. Rivolta Femminile scrive: per il piacere di chi abortisco? Infatti questo collettivo rappresenta la messa in discussione di ogni tipo di rapporto o di ogni tipo di relazione finora esistente tra uomo e donna. E infatti Rivolta Femminile è anche l'autrice di La donna vaginale e la donna clitoridea, dove si metteva proprio in discussione la sessualità e i rapporti sessuali, dove la penetrazione stava al centro del rapporto. I'll be haunting as a child. Bene, siamo finalmente con Marta Panighel che ci accompagnerà in questa puntata, come dicevo prima, attraverso le strade francesi per raccontarci appunto una particolarità della storia dell'aborto francese, ovvero l'aspetto coloniale e neocoloniale, che magari appunto agli ascoltatori e le ascoltatrici italiane può sembrare appunto come un tema nuovo che in realtà per le francesi e i francesi non lo è, visto che ancora oggi la Francia ha dei possedimenti coloniali. Bene, quindi Marta, inizia tu a raccontarci appunto cosa hai studiato, cosa hai letto sulla questione aborto in Francia. Sì, buongiorno, grazie di avermi invitata. E allora, io vi parlerò appunto della situazione francese a partire da questo libro di Françoise Vergès che si chiama Le ventre des femmes, che è uscito per la casa editrice Albin Michel nel 2017. Françoise Vergès è una femminista decoloniale francese, originaria dell'isola della Riunione, che appunto è uno dei possedimenti di oltremare che la Francia ancora possiede dal appunto passato coloniale, ed è figlia di Jacques Vergès, che appunto fu un attivista decoloniale dell'isola della Riunione. Questo libro racconta, come dicevi, una storia dell'aborto complessa, che appunto non è solo quella delle femministe bianche francesi, ma che appunto è una storia intersezionale, quindi che tiene in considerazione appunto anche la categoria di razza e la categoria del colonialismo. Parliamo appunto anche della situazione francese, perché adesso stiamo appunto vivendo questo momento in cui ci sono i 40 anni della legge 194 e anche in Francia, diciamo, la legge che liberalizza, concede il diritto all'aborto è del 1975, quindi comunque in quel periodo storico anche appunto la Francia ha concesso alle donne il diritto all'aborto. Da dove nasce questa legge? Nasce appunto dal movimento femminista, anche se in quegli anni il governo francese era di destra, era Jacques Chirac era il governo in quel momento, ma appunto diciamo la rivendicazione per l'accesso all'aborto nasce dalle rivendicazioni delle femministe. Il 5 aprile 1971 sul Nouvel Observateur, che è un quotidiano francese, esce un manifesto firmato da 343 donne che si autodenunciano per appunto aver avuto un'interruzione di gravidanza volontaria, per aver appunto ricorso all'aborto, che in quel momento appunto clandestinamente, perché appunto era illegale in Francia. In questo manifesto le femministe rivendicano l'aborto come un'esigenza elementare per la lotta politica, perché appunto sostengono che le donne non hanno la libertà di disporre del loro corpo, che appunto è una situazione che solo gli schiavi avevano avuto. Questo riferimento appunto a come dire, la sottomissione delle donne nella società occidentale, appunto paragonabile solo a quella degli schiavi, emerge anche in questo inno del MLF, che è il Mouvement de Libération des Femmes, appunto questo grosso movimento francese femminista, che appunto, in caso poi ti posso passare questo inno, che dice tipo risvegliatevi donne schiave, liberatevi dalle catene, la donna è il continente nero, cioè è il continente no assoggettato. Questa, come dire, parallelismo non piace, non è piaciuto, sembra come dire appunto un'esagerazione alle femministe decoloniali, che solo 40 anni dopo, appunto nel 2017, riscrivono la loro storia, riscrivono la storia appunto dell'aborto. Perché in quello stesso giornale, tre mesi dopo, un articolo denuncia il fatto che nell'isola della Riunione Unione, appunto questo possedimento d'oltremare della Francia, una ragazzina di 17 anni era arrivata in pronto soccorso, insomma sanguinante, finisce in coma, e il medico che la prende in cura si accorge che ha subito appunto un aborto. Da questa situazione appunto il medico fa partire una denuncia, perché appunto in quel momento è illegale l'aborto, e si scopre che nell'isola della Riunione fra le 6.000 e le 8.000 donne hanno subito degli aborti forzati, coatti, e successivamente sono state sterilizzate. Queste donne appunto venivano convinte dai loro medici di base, ma a volte anche da delle assistenti sociali o dai cosiddetti planning familial, quindi delle sorte di consultori, a fare questa operazione, che loro appunto non sapevano di che cosa si sarebbe trattato. Comunque dicevano un'operazione benigna, non c'è nessun problema, ma dovrei subire un'anestesia totale. E durante appunto queste operazioni, cioè le donne si svegliavano il giorno dopo appunto con un procurato aborto e sterilizzate. Parliamo di aborti che avvenivano anche al quinto, al sesto o al settimo mese. Quindi ovviamente molto più traumatico di poche settimane. Sì, esatto. E Françoise Vergès parla di vere e proprie mutilazioni sul corpo delle donne. Cosa succedeva? Perché avvenivano appunto questi aborti coatti, forzati, senza il consenso delle donne? Diciamo che negli anni 70 il sud globale, che in quel momento è definito terzo mondo, subisce questa retorica da parte delle potenze occidentali e da parte appunto del cosiddetto occidente, secondo cui la povertà endemica e il non sviluppo appunto di queste aree del mondo era dovuto al fatto che vi fosse una sovrappopolazione che rendeva appunto più poveri i paesi, rendeva più poveri poi, cioè, gli individui stessi, e dall'altra parte era la causa di delle migrazioni, quindi delle migrazioni che in quel momento appunto dal sud del mondo verso il nord del mondo iniziano insomma ad essere cospicue. Ovviamente questa cosa nega totalmente, cioè, l'imperialismo, il colonialismo degli stati occidentali, però è una retorica che si va affermando, e come dire, che anche nelle narrazioni, che anche magari... nel senso comune, dici? Esatto, anche nel senso comune noi, cioè, un po' ce l'abbiamo questa cosa, no? Che le donne del terzo mondo fanno molti più figli e quindi per quello, no, sono più povere. Come rispondono appunto quindi gli stati ex coloniali, ma di fatto appunto neocoloniali? Rispondono con delle politiche demografiche e quindi sostengono appunto che queste donne del terzo mondo, per civilizzarsi, devono diventare come le donne del primo, quindi avere meno figli. La Francia, come dire, in modo non evidente, non plateale, però convince i medici francesi bianchi che lavorano appunto nelle ex colonie, questo libro parla del caso della Riunione, ma anche nelle Antille, compiere questi aborti coatti verso le donne colonizzate. Quindi abbiamo una situazione in cui lo Stato francese in casa propria nega l'aborto alle donne e invece nelle proprie colonie le costringe ad abortire. Quindi questo è anche un modo per ricordare come l'aborto è sempre una questione politica. Continua pure. Sì, esattamente, come dici tu, lo Stato francese, in questo caso, ma poi appunto anche in altri casi, decide chi ha il diritto di avere dei figli e chi non ha il diritto. Quindi le donne bianche, francesi, cittadine, devono riprodursi, non hanno il diritto di accedere in modo appunto gratuito, sicuro, all'interruzione volontaria di gravidanza, mentre le donne delle colonie, le donne razzializzate, le donne colonizzate del terzo mondo, non devono avere figli. Quindi la nazione si deve riprodurre soltanto, cioè si deve riprodurre solo la nazione bianca. Cosa appunto, come è possibile, no, che questi interventi avvengano appunto all'interno di uno Stato francese che ancora appunto penalizza l'accesso all'aborto? Succede che queste operazioni sono fatte nelle cliniche ortopediche. e i medici in quel momento, appunto quasi tutti i medici bianchi, si fanno rimborsare dalla Sécurité sociale, quindi da diciamo appunto il Servizio Sanitario Nazionale, se vogliamo, per l'intervento che avevano fatto. Ma chiaramente questi medici mentivano, perché non potevano appunto sostenere di aver fatto degli aborti, perché in quel momento l'aborto era illegale. Dunque scrivono insomma che hanno fatto degli altri tipi di interventi, e facendo oltretutto una frode massiccia ai danni dello Stato francese. Quando appunto nel 1971 questa questione arriva in Francia, sì, partiranno diversi processi, ma nessuno dei medici bianchi verrà condannato. Gli unici a essere condannati saranno un medico di origine marocchina e un infermiere della Riunione. Loro avranno appunto questa penalità di 5 anni di blocco della loro professione, delle multe, ma tutti gli altri medici invece potranno continuare a lavorare appunto tranquillamente. Questo appunto anche completamente cancellando poi tutta la questione della frode. Tornando in Francia, vuoi raccontarci le reazioni o le non reazioni del movimento femminista quando vengono alla scoperta di questo fatto? Infatti si tratta soprattutto di non reazioni, perché come dicevo, proprio in quel momento il movimento femminista, l'MLF, in Francia stava rivendicando il diritto di accesso all'aborto. Françoise Vergès sostiene che sia stata un'occasione persa, che appunto in questi ultimi anni, soprattutto grazie alle lotte delle femministe postcoloniali, decoloniali, le lotte delle femministe nere, si parla di una decolonizzazione del femminismo, si parla di lotte intersezionali che quindi tengano insieme le oppressioni non solo di genere ma anche di razza e di classe. In quel momento le femministe francesi hanno un'analisi che comprende la classe, perché appunto vengono da diciamo situazioni diverse, contesti sociali diversi, si interfacciano con le donne operaie, con le casalinghe, sono anche proiettate in una dimensione internazionale, perché di fatto sostengono le lotte delle donne palestinesi, sostengono, cioè hanno dei contatti appunto con i femminismi italiani, hanno addirittura tradotto dei testi delle femministe nere afroamericane, ma di fatto non riescono a vedere la razza nel momento in cui questa è all'interno dello Stato francese, e quindi non prendono in considerazione, appunto, cioè proprio ignorano il fatto che mentre loro stanno rivendicando giustamente il diritto di accesso all'interruzione volontaria di gravidanza, nello stesso tempo appunto migliaia di donne che fanno parte dello Stato francese invece sono fatte, cioè non hanno il libero accesso comunque alla disposizione del loro corpo, perché appunto vengono mutilate, come dice Françoise Vergès, in questi aborti coatti. Di fatto appunto la stessa Vergès arriva in Francia alla fine degli anni 70, e appunto in un'intervista sostiene che lei in quel momento faceva parte sia dei gruppi femministi sia di movimenti decoloniali, e che per lei era più semplice di parlare di femminismo con appunto il movimento decoloniale, nonostante appunto diciamo non tutti i compagni fossero sensibili alle questioni, alle tematiche di genere, che parlare appunto di questioni decoloniali con le femministe bianche. In questo senso Vergès ricorda anche che qualche anno dopo le femministe francesi prendono posizione, non in modo appunto non dichiaratamente, perché appunto non diranno mai non ci interessa niente, certo, delle donne della Riunione, ma poseranno questa corona di fiori alla base dell'Arco di Trionfo di Parigi, dove c'è questo monumento al Milite Ignoto. Loro poseranno questa corona di fiori sostenendo che la posano per la moglie del Milite Ignoto, che appunto è ancora più ignota. E Vergès sostiene che questo sia un chiaro, una chiara volontà di confinare le loro lotte all'interno di quello del cosiddetto esagono, quindi della Francia metropolitana, della Francia continentale, soprattutto anche come dire, facendo questo gesto in uno dei simboli, no, dell'imperialismo francese. E in uno dei simboli dell'imperialismo francese, della nazione, come dire, appunto anche imperialista, della nazione maschile, no? Cioè la guerra intesa appunto come cioè dominio nazionale, in un certo senso. Sì. E quindi sì, questa appunto dalle femministe decoloniali, da Françoise Vergès in particolare, viene considerata come un'occasione persa da parte appunto del femminismo francese di decolonizzarsi, un'operazione faticosa, no? Che sta avendo luogo anche adesso. Questa occasione avrebbe potuto, diciamo, essere già raccolta 40 anni fa, di fatto non è stata così. Ma secondo te il problema del colonialismo all'interno del femminismo francese è una cosa che dura anche negli anni successivi, agli anni 70? Sì, è un, diciamo, una questione sicuramente che, insomma, continua all'interno dello Stato francese. Sicuramente il motivo per cui ne siamo consapevoli e per cui, come dire, questa denuncia è molto evidente è perché appunto in Francia esistono dei movimenti femministi di donne razzializzate o appunto provenienti dalle ex colonie, che appunto per esempio negli ultimi 26 anni hanno lottato contro diciamo il cosiddetto affaire du foulard, le leggi che lo Stato francese ha diramato appunto per impedire alle giovani ragazze musulmane di portare il velo all'interno delle scuole. Questo sicuramente è un discorso che in misura diversa però coinvolge anche l'Italia, cioè anche le femministe italiane, come dire, hanno rimosso una parte della storia, diciamo, coloniale italiana, ma come tutta l'Italia, come tutta la nazione, di fatto appunto ci sono una serie di casi anche in Italia, appunto, che l'aborto è stato, diciamo, il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza, stiamo dicendo, è stato concesso appunto nel 78. In realtà negli anni 40, nel 44, nella provincia di Modena, il prefetto concedeva l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza a quelle donne che erano state stuprate da non ariani. Quindi nel momento appunto della liberazione, insomma, statunitense dell'Italia, appunto i soldati afroamericani erano entrati in contatto con le donne italiane. Alcune volte si è trattato di stupro, altre volte si è trattato di relazione, però appunto veniva concesso il diritto all'aborto per la difesa della razza, sostanzialmente. Volevo aggiungere un'altra questione appunto sollevata da Françoise Vergès, che appunto tiene insieme, come dicevamo all'inizio, la prospettiva di genere, razza e classe, perché Vergès fa questa analisi sostenendo che come dire, gli uteri delle donne razzializzate in realtà servivano nel funzionamento dell'economia capitalista. Perché? Perché appunto lei fa una ricostruzione anche del periodo dello schiavismo, della tratta dei corpi appunto neri africani, e sostiene che appunto gli uteri delle donne erano sostanzialmente dei mezzi di riproduzione del capitale, perché servivano appunto a produrre nuova manodopera, e quindi in questo senso il discorso della riproduzione non è soltanto una discriminazione del patriarcato, ma Vergès lo pone proprio come una questione razziale e una questione economica, appunto, del ruolo che gli uteri delle donne appunto hanno avuto all'interno del capitalismo. E diciamo che la lezione che possiamo tirare, insomma, da tutta questa analisi è la necessità di sicuramente andare a fondo, no? A rileggere anche le storie che non conosciamo, che sono appunto meno mainstream, mainstream, che sono meno, anche appunto, a cui possiamo non pensare. Dobbiamo riscoprire queste storie, ripoliticizzarle, per appunto, come dire, fare un femminismo che sia veramente intersezionale, veramente decoloniale. Grazie Marta per questa bellissima chiacchierata. Grazie, grazie a voi. Ciao. Passiamo subito agli eventi. Il 22 maggio potrete ascoltare proprio Marta insieme a me ed a Delda Guerra e a Laria Santoemma ad un'iniziativa curata dall'Associazione Orlando dal titolo Corpi, Spazi e Movimenti, percorsi e lotte delle donne a 40 anni dalla legge 194, presso il Teatro Comunale dalle 18. Questa iniziativa fa parte di un ciclo più ampio che si concluderà il 29 maggio con un'iniziativa che si intitola Tecnologie digitali e generi tra gioco e sperimentazione. Poi, il 23 maggio, ai Giardini di San Leo dalle 18.30, il collettivo femminista Mujeres Libres vi parlerà di aborto farmacologico, cioè della RU486, un'iniziativa a cui parteciperanno esperte del settore. Infine, vi invitiamo al corteo lanciato da Non Una di Meno di sabato 26 maggio alle ore 16, Piazza Nettuno, proprio per riparlare di aborto e autodeterminazione. Per questo sabato è tutto, buon pomeriggio!